Gentili colleghi all'ascolto, convergete tutti su Radio 24. Sono Filippo, sono al KM 236, sto andando in direzione Verona. Andate su Radio 24 che c'è Beppe Cruciani, il conduttore pastroncio lì. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Allora, guarda, tu non mi credi? Io vorrei parlarti finca. Donato è un eroe! È un eroe! Te, Cruciani, sei proprio un figlio di puttana. Te credi di cercare di azzerare me e portare avanti Donato da Varese perché lo puoi gestire e manipolare come cazzo vuoi, come fosse un bambolotto? A me non mi manipola nessuno, tantomeno te. Quindi tu è inutile che continui a fare proselitismo a Donato da Varese, che non sa un cazzo di quello che so io. Sei proprio un figlio di puttana, sei proprio un bel bastardo, ma tanto non mi fermi. Non mi fermi, Giuseppe, non mi fermi. Io sono un caterpillar, un carro armato, non mi fermi. Hai capito? Io più mi osteggi, più mi incazzo e più reagisco. Tu lo so che ti fa comodo Donato da Varese perché lo manipoli come vuoi. Certo, non ha la visibilità che ho io, non l'avrà mai. Basta vedere in TV. Non che lo dico io, i miei stessi fans hanno detto: cazzo, hai smerdato Cruciani. Tu in TV sembravi che ci fossi stato da 20 anni. Cruciani quando è in TV sembra un bambino timido che diventa rosso, che non perde tutta la sua popolarità. Perché? Perché io sono un animale, in qualsiasi posto mi adatto, tu no. Tu sei adatto solo nella radio perché sei come un topino nella sua tana. Fuori dalla tana sei un coglione, ok? Sei un coglione comunque che nella vita. E se pensi, caro il mio coglione, di usare i vocalist che faccio, ti sei già sbagliato. Perché d'ora in poi la mia voce non si sentirà più. Si sentirà solo le urla del silenzio. Vocalist, ti attacchi al cazzo, coglione. Parenzo, ti voglio carico! Parenzo! Allora, vorrei dire una semplice cosa all'interlocutore che ogni tanto interviene in questa trasmissione, chiamasi Mauro da Mantova. Ma ti rendi conto della responsabilità penale che hai tu, proprio penale? No, volevo dire... Hai creato un mostro, ti rendi conto? Però voglio dire una cosa, il signor Mauro da Mantova deve capire che non si dice vocalist, è un'altra cosa. Cioè, solo questo, poi va bene tutto. Però vocalist ha un altro significato. Poi, per carità, anche noi storpiamo l'italiano, siamo degli schifosi, siamo degli ignoranti, siamo delle merde, siamo dei buffoni, siamo dei giullari. Abbiamo trasformato la lingua italiana in qualcosa di, nel linguaggio della zanzara. Abbiamo storpiato tutto, non riusciamo nemmeno più a parlare alcune volte. Forse tu che devi fare televisione riesci, io non riesco nemmeno più a parlare, ad articolare. Cioè, solo, conta solo il linguaggio della zanzara. Naturalmente. No, naturalmente, adesso questa ecco l'altro, il polacco. Allora, devo raccontarti un piccolo episodio, credo, ma piccolissimo episodio di vita quotidiana. Ho preso la metropolitana per andare a una parte oggi a Milano. E ancora c'è un sacco di gente, come sai, con le scarpe aperte. Con le scarpe aperte, donne soprattutto, che vanno in giro con i sandali, eccetera. È una specie di crimine. Un crimine contro l'umanità. Vedo una ragazza molto carina con i sandali, così do un piccolo sguardo, come sempre, naturalmente, come sai, insomma, non ci si fa mancare niente, no? Anche solo uno sguardo, eccetera. Mi avvicino, ovviamente, naturalmente, per guardare i piedi, come è normale che sia, perché io sono un feticista dei piedi. Che botta, mi arriva una botta, una trambata in testa, uno schifo terribile, tutti storti, uno più lungo dell'altro, l'altro più corto. Ma come cazzo si fa, dico? Per carità, non sarà colpa sua, la natura, come la luce valgo, come altre cose. Ma se uno non è in grado, un amico mio mi diceva sempre: Puccettone, se non sei in grado, quelle cose non si fanno. Cioè devi tenere le scarpe chiuse. È normale, no? Non puoi esporre l'obbrobrio, non puoi esporre lo schifo. Ottima riflessione. Dai, su, ma se uno non ce la fa, se uno non ci arriva, uno si deve anche rendere conto. Ti guardi in basso, ma che piedi ho? Una donna, una persona normale, io che non conosco tante, si guarderebbe e dico: no, guarda, non sono in grado di esporre i piedi. Lo posso fare in casi estremi, naturalmente a casa oppure in spiaggia, non è che puoi andare coperto, naturalmente. In questo caso è giusto il velo. Il velo ai piedi, vedi, il burka ai piedi. Il burka ai piedi. Allora, un paio di notizie, poi fate allora, voi. Un paio di notizie. Stamattina, no, per pura curiosità, per pura curiosità, contro il cosiddetto quotidiano Libero, che avrebbe sottotitolato Libero di dire cazzate, questa è la cosa, questo è il titolo vero. E cerco di trovare la notizia dei due carabinieri che avrebbero stuprato le turiste americane. Cioè, i nomi e i cognomi, dici tu? I nomi e i cognomi, i verbali anche, l'interrogatorio. Aspetta, usciranno magari, no? Usciranno, vabbè. Non ho trovato la notizia dei due carabinieri. No, la notizia c'è, la notizia c'è, naturalmente. Sono in prima pagina. Sì, vabbè, ragazzi. Davanti, ma cosa vuol dire? A parte che sono ancora accuse. La prima pagina di Libero si apre con malaria importata. Le prove. Ma ognuno sceglie come aprire il giornale, cosa vuol dire? Sì, per carità di Dio, amico mio, ma siccome abbiamo letto di doppie penetrazioni, siccome abbiamo letto di questo, pensavo che fossero interessati a dare notizie in generale riguardanti gli stupri nel nostro paese. Non trovo in prima pagina la notizia sui carabinieri. Sulla benemerita. Che avrebbero. Mentre nell'altro caso è praticamente una certezza riguardo la banda cercando. Parla di malaria, mai tanti casi di malaria come in questi giorni. Sto girando il giornale, sfogliandolo ancora, magari sai, non lo so, sarà pagina 6-7, non lo so. Magari sai. Sto sfogliandolo ancora prima di utilizzarlo per incartare il pesce. E non lo trovi. Però ti assicuro che. Ma ancora ci sarà adesso, non ho visto bene, ci sarà. Dai, non dire stupidaggini. Sì, ma lo sto, guarda, ma lo che sto vuoi sfogliando. Dire? Scusa, non ho capito, stai mettendo sullo stesso piano. Uno stupro è chiaramente uno stupro. Cosa vuol dire questa cosa qua? Qui. Cioè, cosa vuol dire? Che non bisogna parlare dello stupro degli extracomunitari perché ci sono due carabinieri che forse avrebbero. Bisogna parlare con la stessa intensità della vergogna dello stupro, del fatto che l'uomo è un maiale. Ma guarda, ancora adesso sto sfogliando il giornale. Ma io ti assicuro che non riesco a trovare la notizia, ma forse no, mi sfugge, ma dov'è? Scusa. Allora, altre notizie. Il mediatore culturale. Me lo dite, ascoltatori, se c'è la notizia su Libero. Ci sarà sicuramente. Il mediatore culturale di Bologna indagato per istigazione a delinquere. Sui social aveva sostenuto che uno stupro per una donna è peggio solo all'inizio, come sapete. La frase esatta era: lo stupro è un atto peggio, ma solo all'inizio. Una volta che entra il pisello, poi la donna diventa calma e si gode come un rapporto sessuale normale. Allora, questo qua è ovviamente un coglione. Allora, indagato per istigazione a delinquere, non capisco cosa vuol dire. Adesso questo non è che ha stimolato, non è che ha. È la fattispecie. Sì, di ma reato, non è che, ragazzi, ma non è che si può trasformare ogni cosa in un reato. Questo è semplicemente un cretino che è stato giustamente estromesso, un coglione, un imbecille, una testa di cazzo, quello che vuoi, che è stato giustamente estromesso dalla cooperativa dove lavora, è stato cacciato su due piedi. Però non è che deve essere indagato per cosa? Cioè, per istigazione a delinquere di cosa? Ma di che parliamo? Dai. Non lo voglio salvare. Sempre giustamente per una frase del genere, lo stupro è un atto peggio, ma solo all'inizio, devi essere indagato. Ma di che indagato? Secondo me indagato per cosa? Cioè, per cosa? Ma è una follia, no? Ma è semplicemente un cretino e basta, è un coglione, una testa di cazzo e basta. Basta dai. Con i cretini, basta. Basta, appunto. Ma, però la galera basta che c'è. Basta con i cretini. Allora, Salvini non faccia il medico, ma certe malattie sono legate all'immigrazione, punto. Tra l'altro, il capo branco di Rimini, il signor Butungu, mi piace il nome, non so perché Butungu, perché dà l'idea dell'Africa nera, no? Butungu. Guarda, sono arrivato a pagina 31 di Libero, ma non ho trovato la notizia, sai? Vabbè, Butungu è... Posso fare un appello agli ascoltatori? Se trovate la notizia su Libero, potete telefonare all'800 24 00 24. La notizia, lo ricordo, di due carabinieri che avrebbero stuprato delle turiste americane. Se trovate questa notizia su Libero, potete telefonare. Allora, Butungu era affetto anche da tubercolosi, da TBC. Signor Butungu. Salvini. do giudizi perché non faccio il medico, evidentemente, posso solo essere vicino alla famiglia della bimba morta da 4 anni, che però un certo tipo di malattie è legata ai fenomeni migratori che riportano in Europa, negli Stati Uniti, malattie che erano scomparse. Punto. Allora ragazzi, adesso ovviamente la questione riguarda Napoli, dunque ogni volta tornerà al discorso Napoli, voi Cruciani contro Napoli eccetera, però amico mio, esiste a Napoli una cosa che si chiama sportello occupazione, cioè c'è un'associazione che si chiama Magname Persone, una cosa Magname c'è persone, così ti giuro si chiama così, un'associazione che ha uno sportello per l'occupazione. 4 sportelli per... cioè tu vai là e dici io sono senza casa, o comunque affermi una cosa di questo tipo, vero o no che sia, e ti dicono beh allora puoi occupare questo palazzo, puoi occupare quell'altro palazzo, abbiamo una casa libera da questa parte, abbiamo una possibilità di occupare quell'altro, ti giuro è così, lo sportello occupazione di Napoli. Sono attivi 4 sportelli in tutta la città che a titolo gratuito offrono assistenza legale, provano a intercettare le persone che vivono il disagio abitativo. Cosa fanno questi signori? Occupano stabili e riconvertono l'uso degli stabili. Non occupiamo case, appartamenti, noi occupiamo stabili, palazzi e ne riconvertiamo l'uso. Non c'è una guerra tra poveri per cui non si va a intaccare il diritto di qualcun altro, quindi per esempio occupare la casa di qualcun altro. Ah, ci scusi, non occupate le case, occupate gli stabili, di qualcuno sarà, no? Questo stabile, cioè non è che è la proprietà è dello Spirito Santo. Il merito è di De Magistris, che è contro gli sgomberi coatti. C'è da dare merito sicuramente a questo sindaco, a questa amministrazione comunale, il fatto che da subito si sono schierati contro gli sgomberi coatti, ma hanno provato sempre a trovare, diciamo così, un'alternativa. Basta sentire la trasmissione anche di Radio 24, quella del pomeriggio tardi, il peggio del peggio dell'animo umano. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta Da Zanzara. Zanzarosi, giornata difficile, chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Scoprirete che potrebbe anche andare peggio. Cruciani, quello che ti ha paragonato al Facebook della radio ha ragione al 100%, per quello ti sei agitato così. Tu usi lo schifo e la merda per il tuo tornaconto personale e purtroppo lo schifo e la merda si allargano sempre di più, anche grazie a te. Grazie Cruciani, grazie. Ma io sono orgoglioso di questi messaggi, ne arrivassero tanti di questi messaggi, sono orgoglioso di questi giudizi. Povia, intanto arriva il signor Povia. Signor Povia, devo dire che sono dalla parte di Povia quando annullano un concerto, quando l'Associazione Nazionale Partigiani, la sedicente Associazione Nazionale Partigiani, che non rappresenta assolutamente nulla e nessuno, cerca e riesce in alcuni casi, come è successo credo in provincia di Milano, a far annullare un concerto del signor Povia. Non si capisce perché aderisce a movimenti o è vicino a movimenti di estrema destra, perché ha detto che anche i partigiani sono degli assassini, eccetera, eccetera. Comunque, una cosa ridicola. Poi la responsabilità non è dell'AMPI, ma sono dei sindaci che vietano un concerto a un artista. Poi uno può andare, non andare, ma perché dovrebbe essere vietato un concerto a Povia, il quale poi ovviamente si paragona a Tenco e non so a chi, a Mia Martini, e qui ovviamente scivola nel ridicolo. Però il punto non è questo, cioè il punto è vietare qualcosa è sempre sbagliato, in questo caso soprattutto, no? Cioè, è quasi sempre sbagliato, diciamo così, un concerto di Povia non fa male a nessuno. Dopodiché poi il signor Povia dice che Imposimato, ripeto, un giudice vicino ai Grellini, era vicino ai Grellini, il quale sostiene che la bambina morta per malaria, non è morta in realtà per malaria, ma perché poco tempo prima ha fatto 10 vaccini, non so nemmeno se sia vera questa cosa qua, o comunque è morta a causa dei vaccini, il signore imposimato, Povia lo appoggia. Senti. Povia. Senti. Sulla bambina Sofia di 4 anni morta di malaria si apre un'altra ipotesi, mi incuriosisce il giudizio del giudice Ferdinando Imposimato, ex giudice della Suprema Corte di Cassazione, viene fatto passare per complottaro quando ha fatto una semplicissima dichiarazione, cioè se la bambina ha fatto 10 vaccini e poi è morta occorre accertare se essi siano stati la causa della morte. No, ma non ha fatto una dichiarazione, ha detto una cazzata, non c'entra nulla la morte della bambina con i 10 vaccini, non c'entra niente, mettetevelo in testa, lasciate perdere le vostre discussioni sui vaccini, sull'obbligatorietà eccetera eccetera. La morte di quella bambina con i 10 vaccini, non so nemmeno se li abbia fatti, non sapete nemmeno se li ha fatti o no questi 10 vaccini, non sapete, probabilmente no, probabilmente non li ha fatti nemmeno, non c'entra una mazza, chiaro? Non c'entra un cazzo. Chi dice, chi sospetta questa cosa è semplicemente un cretino, punto e basta. È morta per la malaria, chiaro? Quindi è un cretino. Ma certo che in questo caso è un cretino, certo. No, ma io direi no in questo caso, cioè, dice sempre un cretino, dice. Sempre, no, ma senti, dai, senti, senti quest'altra di Povia, senti. E in effetti la bambina infatti è venuta la febbre altissima, quindi facciamo chiarezza, tanto poi non sono stati i vaccini, giusto come sempre. O forse questo dibattito sui vaccini andrebbe riaperto, non lo dico io, ma il promotore mondiale dei vaccini, niente poco di meno che il The National Institutes of Health National Center for Biotechnology. Povera Sofia, quindi poveri tutti i bambini che potrebbero avere gravi conseguenze, anche se poi dopo lo Stato paga i danni. Cioè sono quelli che non hanno manco il coraggio di dirlo, capito? Sospettano, buttano lì la cosa, beh, i vaccini, non sono stati poi i vaccini. Ma dai ragazzi, tu, è ridicolo, dai. Dove andiamo? Giuseppe, provincia di Bari, vai, apriamo, apriamo le gabbie, vai Giuseppe. Ciao, dopo cena, no? Non è mai presto, non è mai presto. Dimmi Giuseppe, dimmi. Pronto, ragazzi. Vai, vai. Allora, niente, io, Giuseppe, ti volevo dire una cosa. Io provo sinceramente pena per tutte le persone che insultano te e la tua trasmissione, per un semplice motivo, perché è nulla, la tua trasmissione è nulla, è nulla rispetto alla prostituzione intellettuale che c'è in Italia. Io, bravo, guarda Giuseppe, bravo, la cosa bravo che mi ha scioccato tantissimo, io sono dottore, mi ha scioccato vedere il fatto di Rimini che è stato buttato in caciara sulla questione migranti. Allora, e poi giustamente uno come Parenzo, in questo paese di prostituzione intellettuale fa il moralista. Perché io non ho capito bene chi è che l'ha buttata in caciara, non ho capito. L'hanno buttata in caciara perché si è parlato, tu mi darai ragione sicuramente, sul fatto di migranti. A me non interessa se sono stati 4 migranti, 4 italiani, 4 lordi. Io voglio per questa gente le punizioni. Io sono, non mi vergogno, la castrazione chimica per queste persone. È d'accordo pure Parenzo con la castrazione chimica? No, non è d'accordo. Sono d'accordo, non, non lo direi con questa violenza, quasi soddisfazione sadica. Il caro Parenzo non lo dice mai. Allora ti dico io, il fatto dei migranti è servito a spostare l'attenzione da un problema cosa vergognoso, dal fatto che in Italia le persone, i delinquenti, gli animali non vengono puniti. Perché no, non vengono puniti abbastanza, anni... non vengono puniti abbastanza, no, no, purtroppo. Spiego, Giuseppe, Giuseppe, dai, non ci prendiamo in giro. Questi tra 3 anni tu lo sai benissimo. I minorenni, sono i minorenni escono, e l'altro, sì. E l'altro si fa 4 anni, e l'altro si Butungu, fa 4 anni. Butungu, non Butungu, credo che faccia 4 anni. Non credo faccia 4 anni. Comunque, certamente uscirà, uscirà, uscirà. Prima, allora, che rispetto ad altri paesi. Non c'è dubbio, non c'è dubbio su questo. Allora, la prostituzione intellettuale italiana. Ma infatti, bisognerebbe, non so se le pene siano maggiori. E inutile, senza ironie sul Libero, per me lo stesso discorso vale per i due carabinieri di Firenze, attenzione, proprio quello ti volevo dire, cioè la vera prostituzione intellettuale sposta l'attenzione su situazioni che, ripeto, non interessano a nessuno, a me non interessa il colore, non interessa la razza. Vabbè, tu vuoi la pene durissime fino alla castrazione chimica nei ma confronti. Tu lo puoi cambiare, tu con questa trasmissione puoi non lo cambiare, però lo puoi migliorare in questo paese. Il resto che sta fa schifo, voglio dire alle persone che insultano. Ma io non voglio cambiare, non voglio insegnare niente a nessuno. In Svezia, ma Sam, chi vi insulta? Ma dove vivete in Svezia? In Italia, dove Povia, Povia ha parlato, ragazzi, Povia il piccione ha parlato dell'istituto oggi. Hai capito che cazzo di azione è questa? Povia ha parlato di Imposimato, del posto. Quindi allora, in questo tipo di paese noi ci scandalizziamo della zanzara. Ecco perché. Fermola. Scusa. Ed è venerdì. Crucia finalote! Non mi rompete i coglioni. Finalote. Sono sono veramente disgustato da quello che conducete, è una radio veramente seria della Confindustria. Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Stronzone! Il segnale orario vi è offerto da... A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin, nel banco freezer! Vi presenta La Zanzara. Let the body set the flow. Let the body set the flow. Let the body... Poca figa massaggio. Let the body set the... Naturalmente. Buonasera cari ascoltatori della Zanzara. State andando benissimo. Continuate così tutti i giorni, tutti i giorni. Continuate ad attaccare il signor Cruciani, portatelo allo sfinimento. Vedete che prima o poi capirà che è un emerito cazzone. Bravi, viva Parenzo e la maggioranza silenziosa. Portatelo allo sfinimento, attaccatelo, attaccatelo, attaccatelo, ammorti, ammorti, ammorti, mordetelo. Un abbraccio. Io fa sta male, sento dalla voce che sta male. Già tutti a condannare i due carabinieri, ma la storia non ci insegna nulla, ma è una bufala, è una bufala. Ma figuratevi se due carabinieri... ma minchia, ma non ci credo, ma neanche se vedo i video girati dalle telecamere. Poi, se dovesse essere così, che paghino. Ma assolutamente sarà una bufala, sarà una montatura e le tippe avranno sicuramente esagerato. Spesso ci accusano, caro David, di utilizzare certi termini, no? O comunque accusano chi interviene alla Zanzara, accusano quelli che tu chiami i telefonisti della Zanzara di usare termini molto forti, per esempio bruciare, che ne so, i rom, gli immigrati, c'è qualcuno che interviene e dice cose del genere. Ma la vuoi smettere con sta tosse? Cioè io ti vedo, esatto, ti ha preso la TBC, qualche immigrato ti ha attaccato la TBC, ma è una cosa incredibile. È una settimana che vai in televisione e non c'è la... Si prende la tubercolosi leggendo Libero. Cioè io da quando sto leggendo Libero... No, sì. Ma è una cosa pazzesca, cioè in televisione no, mi aumenta il catarro. No, ma io ti vedo, ma scusa, però Libero, sì, però c'è adesso, oggi è tutto il giorno che leggo Libero. Sì, però amico mio, mi è aumentato il catarro. Sì, c'è la TBC trasmessa attraverso Libero, però no, non lo so, mi è aumentato, sì, ma c'è, una cosa legata, ma c'è questo, un mistero, però... ma c'è un mistero, cioè tu, io ti vedo in televisione e quindi non c'è mai la tosse. Vieni, posso qui darti un altro mistero da risolvere? No, ma è incredibile, cioè dai, dunque, l'altro mistero della giornata è sul quotidiano Libero di oggi, quesito facile, facile, facile. C'è la notizia dello stupro che sarebbe stato compiuto dai carabinieri ai danni. Ma magari ieri sera la notizia è arrivata tardi, il giornale chiude presto, non lo so, è un'ipotesi. Ah, ma sì, sarà questa la notizia, perché guarda, sto sfogliando il giornale, non riesco neanche a pronunciare il nome. Vedi? Dai, terribile. Allora? Non lo trovo. Vabbè. Magari non l'avevo io. Mi potete telefonare se la trovate la notizia? Ci sono alcuni termini che sono stati utilizzati, che venivano utilizzati anche nei film più popolari, nei film italiani più popolari. Tipo Fratelli d'Italia, te lo ricordi, con De Sica, senti. Quella è gente che rovina l'Italia. Per me andrebbero tutti bruciati. Beh, bruciati. Vivi. Mi chiamo Cesare Proietti e me ne vanto. Ah, l'avevo capito subito che eri un sola. Eppure io avevo capito subito che eri un frocio. Gordi, andiamo tutti da Bubetto per un drink. Lei è dei nostri, caro. Ah, bamboli, ma vada a piander culo. Donato Varese, Donato, il ritorno di Donato. Mamma mia, incredibile. Donato, vai Donato, ciao, ciao, ciao. Pronto, pronto, ciao, ciao. Allora, dimmi. Prima cosa vorrei fare un saluto grande all'amico Meluzzi. Meluzzi, sì, Meluzzi. Colui sì. Che sta istituendo un partito contro l'islamizzazione. Sì, sì, sì. Facciamo questo poi saluto. Vorrei salutiamo. Vorrei scaricare 1000 camion sputi sì. Sulla mostra del cinema di Venezia. Perché? Che è successo a Venezia adesso? Cosa dice? perché non è possibile che il cinema italiano debba essere rappresentato solo dalla sinistra. Vabbè, questo è puro razzismo. Sai quando vi dire, se il razzismo si potesse materializzare, tu vedi la sinistra razzista nel cinema italiano che vorrebbe rappresentare me, la sinistra. Quindi mille camion spurchi su quel sozzume della mostra di Venezia del cinema. Vabbè, poi... Una cosa, vorrei fare un saluto adesso, a Vittorio Sgarbi. Basta con i saluti, però adesso donà. Sì, vabbè, no, salutiamo, salutiamo Sgarbi. Sì, salutiamo Sgarbi. Sì. Che grazie a Sgarbi ho avuto per spirito di liberalità, ho avuto il suo avvocato che mi sta difendendo. Ottimo, contro ottimo. Quei maniaci, quegli schifosi comunisti di sinistra, quei traditori di questa Italia ormai perduta. Sì. Ormai perduta. Perché è perduta? Dimmi, perché? Perché è perduta? Perché? Allora. Come perché? Ma tu mi dici di me perché è perduta, ma allora noi tra poco, sì. se viene approvato lo Ius Soli, io parlo sì. sempre delle solite cazzate, vorrei parlarvi altro. No, ma dimmi, dai, di... vai tranquillo, vai. Allora, se viene approvato lo Ius Soli in Italia, sì. l'Italia è finita! Sì. Finita! Basta! Basta la sinistra quando sento quello schifoso, chi? Quell'uomo di merda. Adesso lui mi querelerà. Di chi? Querelami! Orlando. Ministro di giustizia Orlando. Orla. Che ha detto? Sì. Che ha detto? Basta guardarlo in faccia, è sempre un abbinazzato. Ha detto questo. Che se noi diamo lo Ius Soli, metteremo in condizione tutti gli immigrati al quale noi daremo la cittadinanza per farli diventare più amici nostri. Vuol dire che, allora mi deve spiegare come mai centinaia di migliaia di italiani in Svizzera che la cittadinanza se la devono guadagnare pregando a San Giuseppe, che non gliela daranno, non gliela darebbero mai, qualora, a meno che non residessero lì per anni e anni, chi italiano in Svizzera ha commesso attentati, si è messo a stuprare le svizzere. Orlando deve essere completamente messo in galera. Voglio queste cose, le dico perché sono convinto. Orlando non è degno a difendermi quando dice quelle cose. Poi? Io sono io non voglio vivere con gli africani. Tu non vuoi vivere con gli africani? Parenzo non vuole vivere con gli africani, Donato. No, ma è solo per capire. Ho capito due cose. Vuole mettere il ministro della giustizia in galera. Ho capito bene, l'hai corretto? Mi sembra di sì. Poi? Per le frasi che si dicono! Poi? Perché mostre un'inettitudine. Io lo stigmatizzo per la sua inettitudine! Non per quel per le cazzate che ha letto, che quando parla mi sembra uno pseudo Davigo. Non ho capito una cosa, caro Donato. Non capisco perché non vuoi vivere con gli africani. Non voglio. Io sono affezionato con la pelle bianca. Non è un razzismo. Non è razzismo questo. Se mi piacciono le donne rosse, non è razzismo. Se mi piacciono le donne con il culo a mandolino, non è razzismo. Quindi è rapportabile alla pelle. Io voglio parlare con la gente bianca. Cioè non vuoi parlare con i negri, ma pratica. Questo non voglio dire che noi siamo superiori, anche se lo saremmo sotto un miliardo di aspetti, tranne alcuni grandi jazzisti che erano di colore, come il grandissimo Charlie Parker, Dizzy Gillespie, non so io, e tanti altri ancora. Io sono contro questa islamizzazione e questa africanizzazione che sta distruggendo la nostra identità. E sugli stupri non mi dici niente, sui... Stupri, tagliare il cazzo. Tagliare il cazzo, così. Tagliare il cazzo, basta. Perché quelli erano lucidi. Io voglio il mio cospetto. Voglio quel porco di Saviano. Sì. No, che c'entra Saviano? Miei piedi e dare il coraggio di dire le sue bestemmie. Voglio quell'altro senza aereo, che cazzo c'ha i giovanotti? Voglio Mario De Filippo, diciamo, il moglie di Maurizio Costanzo. Ma che c'entra? Che voglio Venditti, voglio Crozza. Voglio l'immigrazionista Bennato che vuole l'Africa in casa. Voglio Alessandro Gassman. Voglio l'Alicizetto, voglio Muranda, anche il Mangiamerda, Ferilli. Un sacco di gente. Vuole De Gregori, il capitalista Fazio, Mannoia, i Muppets Faz, Fedez e J-Ax. Questa gentaglia li voglio avere davanti e mi devono dire perché vogliono che l'Italia si islamizzi e si africanizzi. Me lo devono spiegare. E come fanno a venire l'Italia, se fosse... Allora, quello che andasse in Italia, se fosse accaduto 40 anni fa, io e te non saremmo qui. E dunque che nemmeno l'ebreo che è a fianco, l'ebreo non inteso come razzismo, come dici, cioè, con la testa di cazzo, quel servo, del niente, quel servo di criminali, che peraltro i criminali non sono nessuno, in quanto non dovrebbero esistere. Allora, tutto questo. Parenzo, ti vedo passivo, però. Ti vedo passivo, però, Parenzo, ti sento passivo. No, riflette, è una nuova tecnica, faccio solo per capire. È una tecnica nuova, gandhiana, non violenta. Anche quel culo rotto di Toscani, che una volta disse. Che c'entra Toscani? Ma la Lega, che merito ha per essere nata in Italia? Allora io gli dico, guardate le mie figlie, che cazzo hanno per essere diventate benestanti per il fatto che hai fottuto miliardi di milioni di euro di lire con quelle tue foto di merda! Ma perché non ha rubato? Che vivono in zona psiche quando ero ragazzo! Indietro con la negretta, il bianco e il nero, che è morta! Che cazzo che significa la tua dire? No, scusami, perché non ti piace il nero? Cerchiamo di mettere un attimo di ordine, scusami, nelle cose che sono andate fino a qui dette, nell'ordine, giusto per capire. No, chiedo scusa, ma se ho capito bene. Uno, primo punto, non vuole vivere con i negri, è così? Sì, così, sì, non vuole vivere. Capisco bene, no? Sì, poi? Poi ha detto qualche cosa di orribile nei confronti di Saviano. Sì. Poi ha detto che vuole buttare del letame sulla mostra del cinema di Venezia. Sì. No, ma dimmi se capisco male. Dominata dalla sinistra, dice. Dominata dalla sinistra. Ma finora ho detto cose sbagliate, ho capito male? No, è così, più o meno no, è così. Chiedo. Poi? Poi ha detto che vuole mettere in galera il ministro della giustizia. Deve andare in galera col comunista. Non è degna. È anacronistico in questo tempo. È solo deleterio. Quella faccia lì è deleteria. Allora mandateli in galera. Così verranno tutti quelli che mi vogliono bene e mi faranno uscire fuori dalla galera. Allora, se io dico che Orlando è degno di essere un ministro della giustizia, me lo devo dire. Poi da Vico, ve lo ricordate da Vico? Ma che c'entra da Vico adesso? Bravo giornalisti, da sempre lo so. Ma che c'entra da Vico adesso? Che era all'ennesima potenza, era meno cuore di un giornalista, non il coglione che è a fianco lì. Disse, cosa ne pensa del caso Tortora? Ma che c'entra? Io non posso rispondere, gli altri non li conosco. No, io se fosse a posto di Vico, sai cosa dico? Che Lucio mi scambia di Pietro, quello che condannò di Tortora, se fosse stato per me, io... Davico, io l'avrei messo in galera! Altro che promuovere la sostituta del procuratore di Salerno! Vabbè. Qui! Altro che la mafia! Scusami, Donato! Noi abbiamo la mafia in Parlamento! E ve lo spiegherò punto per punto! Scusa. L'Italia è finita! L'Italia è finita, dice, e piange. L'Italia è finita? Forse sì, è finita. Comunque voglio ringraziare l'avvocato di Sgarbi. Ma io voglio capire una cosa, Donato, ma tu hai paura di finire in galera? Io se vado in galera, perché ho difeso il mio popolo, io sono fiero. Se vado in galera perché ho rubato o perché ho stuprato, allora sarò il primo a suicidarmi. Sì. Io vado in galera perché quel corno che è a fianco si è permesso di creare la locuzione, la maggioranza silenziosa. La maggioranza silenziosa siamo noi! Che non abbiamo un megafono, guardate un po' tutta la televisione. Fermi tutti! Viva l'Italia, ciao! E adesso la borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Parenzo, uomo di merda, vaglielo a dire in faccia a Povia che è un cretino. Coniglio di merda, infame di merda. Cruciani, tu di coraggio è meglio che non parli, hai capito? Che te ne sei scappato, ti sei andato a chiudere nel tuo studio di fronte a una donna. Coniglio di merda pure tu. Cerchio bottista di merda. Che questo è avvelenato, eh? Questo è avvelenato contro di noi, eh? è avvelenato contro di noi, ma quello prima è uguale, cioè quello prima è la stessa persona, prima ha sparato a zero dicendo diglielo in faccia a Povia, ma glielo diciamo tranquillamente a Povia, cioè mi pare che il clima però stia cambiando quest'anno, sono contento perché i miei appelli alla maggioranza silenziosa di intervenire sono hanno funzionato, insomma. Mi pare bene, è cambiato il clima, ma non è cambiato nessun clima, è cambiato il clima, cambiato allora il clima. C'è un prete che si chiama Don Luca, sto guardando il quotidiano Libero. Ah, basta con sta storia, dai, su, cioè sarà arrivata tardi la notizia di ieri, l'avranno metteranno domani, qual è il problema, ma chi se ne frega poi, dai, cioè, Don Luca Favarin è un prete, in fondo è solo uno stupro, no? Ma no, ma ragazzi, è una banale notizia di cronaca, allora, giusto? Allora no, faccio per capire, ti chiedo. Vabbè, allora andiamo a dire. La notizia dello stupro dei due carabinieri è una banale notizia di cronaca. No, non è una banale notizia, è una notizia importantissima. È una notizia importantissima e domani sarà sulla prima pagina di tutti i giornali. Cioè, io non so perché veramente oggi. Ovviamente c'era già oggi sulla prima pagina di quasi tutti i giornali. Ma no, non è così. Nico da Firenze, vai, Nico. Certo, non li hai visti bene, mi dispiace. Nico, vai. Sì, io sì. I giornali di cartacei non li guardo, non sono antico come te. Nico, vai. Sì. No, niente, io per quanto riguarda intervengo per quanto riguarda lo stupro dei due carabinieri che tutti i giorni, che anche al lavoro si legge questa notizia. Niente, io trovo scandaloso che vogliamo fare un caso come quello di Rimini, è assolutamente diverso, ma diversissimo. Cioè proprio non ci sta né in cielo né in terra l'uno con l'altro. Fatto incredibile anche questo. Ma in che senso? Scusa, non sta né in cielo né in terra. Allora, uno stupro, una violenza nei confronti di una donna, fosse accertato sarebbe uguale, sarebbe esattamente la stessa cosa. Le modalità saranno diverse, ma è la stessa cosa. Sì, su quello sì. E allora, su quello appunto, sì. Però, come abbiamo detto sulla Nazione, io sono di Firenze, sicuramente questi se ne sono approfittati, l'hanno portata a casa, non si reggeva in piedi, e c'è un sacco di americani che girano per locali, mezze. Che vuol dire, scusami? Che vuol dire? Niente, questi due deficienti hanno fatto quello che hanno fatto tante altre situazioni di cronaca che sono successe. Tu vuoi dire che siccome erano ubriache, non si reggevano in piedi, uno è autorizzato a mettere le mani addosso? No, ma chi ha detto una cosa del genere? Assolutamente. Cioè tu vuoi dire che è un caso diverso rispetto all'aggressione in spiaggia? Vabbè, sicuramente non hanno lasciato nessuno sanguinante in terra, non sono andati in quattro contro una. Su questo non c'è dubbio, Nicolo. Non sembra sia andata così. Sì, d'accordo, tutto è diverso. Dopodiché, poi mettere le mani addosso a qualcuno, stuprare qualcuno, penetrare qualcuno, a qualcuno non piacerà questo termine, contro la sua volontà, eccetera, eccetera, come abbiamo letto in maniera approfondita in questi giorni. È la stessa cosa, amico mio. È esattamente la cosa. Che sia commesso da due carabinieri, sia commesso da quattro. Poi tutti i discorsi. Meno male. Ma questo è la base di tutto. Che non può assolutamente fare il pari con quelli di Rimini, visto che vuol dire non fare a livello di informazione, su tutti anche sul vostro, ora ho sentito. Beh, innanzitutto ti avverto di una cosa, caro Nico, che in realtà questa cosa qui potrebbe provocare un casino con gli americani, tant'è che già è in moto l'ambasciata americana, per cui sembra anche da un certo punto di vista, a livello di relazioni, anche più grave, se vuoi, no? Poi soprattutto perché sono degli uomini in divisa, e una cosa sono quattro sfigati marocchini e uno è un nigeriano. Ma che dici, ragazzi? Ma se due carabinieri con la scusa di aiutare le due persone, due turiste, se le trombano, come dire, le stuprano, eccetera, contro la loro volontà, questi qua sono non solo da cacciare, ma da punire col doppio della pena, secondo me. Carabinieri, tutte e due cretini. Ma io non lo so, ragazzi. Io ancora non ci voglio credere, perché ovviamente ho il massimo rispetto. Dobbiamo invece credere, sì, certo. No, io non ci voglio. La notizia oggi su quel giornale non c'era. Ma io ho detto non ci voglio credere. Né in terza né a pagina 49. Vabbè, Spiros Firenze, vai, Spiros. Vai. Dice il mio concittadino, uno stupro è uno stupro. Anzi, il fatto che questi due erano due tesori dell'ordine in divisa, l'hanno eventualmente, se l'hanno fatto, attenzione. Questo è un aggravante, ma che scherziamo davvero? Anzi, non li autorizza per niente. Vabbè. Comunque, ovviamente per adesso sappiamo solo delle accuse che hanno fatto queste due americane. Attenzione. Volevo dare una possibile spiegazione a David. David, le due ragazze sono andate a denunciare il fattaccio dopo che molti giornali erano già chiusi, presumo anche Libero. E comunque ti testimoni. Aspetta, David, aspetta, perché io sono qui. La Repubblica in qua già nella prima parte. Ma aspetta un secondo. Stamattina alle 7, guarda, ti testimonio io stesso. Come mai? Che Aspetta, come mai Repubblica violentate dai carabinieri? Aspetta. Sul cartaceo, come mai? Aspetta, David. Allora, queste due ragazze sono andate a denunciare il fatto a notte inoltrata, quindi ci sta, ripeto, che il libero non abbia avuto il tempo di fare. Secondo me è assolutamente così. Vista, ma che cazzo ne so? E comunque ti testimonio una cosa: che stamattina alle 7 online, sul giornale online di Libero c'era ampio risalto. Va bene, grazie. Mauro da Messina, vai. No, Mauro. Aspetta, fammi dire una cosa. Aspetta. Che c'è, Spiros? No, volevo dire un'altra cosa. Abbi pazienza sui vaccini, perché voi avete fatto di me un disgraziato, perché sono una zanzara mezza. Mezza Cruciani e mezza Parenzo. Ma che c'entra i vaccini? Che c'entra i vaccini? Spiegami. Aspetta, che te lo dico. Perché, allora, voglio intervenire anche su questo punto. Perché... No, non c'è tempo. Mauro da Messina, dai, un'altra volta. Ciao, Mauro da Messina, dimmi. Allora, l'altra sera ho sentito una grandissima cazzata quando avete parlato del fascismo. Vabbè, allora? Perché il fascismo non faceva parlare, non faceva esprimere liberamente le proprie idee. Mi pare abbastanza. Forse è vero. Sì, no, avete sentito mai parlare delle trasmissioni di Giletti, di Giannini, di Paragone? I democratici comunisti li hanno fatti chiudere. Ma cosa I c'entra? Democratici comunisti mettono il bavaglio a chi è che va contro. Cosa c'entra? Che la politica... Come cosa c'entra? Chiudono le trasmissioni perché parlano male di Renzi. Si è parlato di devi stare calmo. Allora, Mauro, una cosa è la politica che si intromette nella gestione delle televisioni e rompe i coglioni, a parte che non c'entra niente, perché Paragone è un altro discorso. Restiamo a Giletti. No, Paragone parlava male di Renzi, diceva la verità. Ma figuriamoci, guarda, è un altro discorso. Mettono il bavaglio alle trasmissioni che vanno contro. Senti, Mauro, la questione di Giletti, abbiamo difeso Giletti in mille modi. Che cazzo vuoi? Allora dimmi una cosa. Ma cosa c'entra col fascismo? Ascolta, cosa allora, c'entra col fascismo? Imbecille, sono uguali comunisti, perché Stalin era un padre. Non è che Stalin ha fatto chiudere allora, Giletti. Come c'è l'apologia del fascismo che toccano pure i simboli del comunismo? La falce e il martello era il simbolo che aveva l'amico Stalin. Ma cosa perché c'entra? Ma cosa c'entra? Certo, perché quando si parla del fascismo fa schifo. Mauro. Il comunismo invece ci ha dato la libertà. Mauro. Da Stalin spariva. Mauro! Basta! Allora, cosa c'entra Stalin col fatto che la RAI cancella la trasmissione di Giletti? Cosa c'entra? Ma cosa c'entra Stalin? Imbecille, cosa c'entra? Perché Stalin era un bastardo comunista, spiegami una cosa. Oddio, quella povera bambina che è morta di malaria, ci siamo tutti, è arrivata la malaria in Italia, un caso di malaria. Perché il regime comunista non ci ha detto che erano ricoverate una famiglia con la malaria? Perché questo non deve passare, questa è un'altra libertà. Ma chi di te l'ha detto? Ma il popolo non deve sapere niente. Ma l'abbiamo saputo perché l'hanno infettata. Ma l'hanno detto tutti che c'era un'altra famiglia. Quando è morta la bambina si è saputo che quelli erano ricoverati. Ma non prima. Ma certo, non è che perché il regime non deve fare niente. Ma chi te l'ha detto? Ma non è che ti dicono che c'è una famiglia ricoverata per la malaria. Certo, a me lo dici. Certo. Non dicono niente. Mille problemi. Vieni a Messina dal sindaco del cazzo qua che abbiamo. Che con la gente che caga e che pisce in mezzo alla strada. Che e non ci si può dire niente. Le aiuole, i parchi giochi dei bambini presi d'assalto di questi pezzi di merda che non fanno un cazzo dalla mattina alla sera. Chi sarebbe? E io spacco il culo e pago le tasse per questi qua. Ma chi sarebbero? Siamo rotti coglioni. Ma chi sarebbero questi qua? I migranti? Sì, ciao, vieni a Messina. Perché siamo pieni? Perché qua prendono, qua ci sono più cooperative che persone. Aspetta, Mauro, ma dove stai parlando? Dalla auricolare, viva voce? Come stai parlando? No, non ho la viva voce, ho le palle lo sai quanto ho le palle? 200 perché a me mi rompe il cazzo. L'agenzia delle entrate a me mi rompe il cazzo se vado a comprare un frigorifero e me lo spiega. E questi sono sulle panchine a vendere senza licenza e senza niente. Hai capito? E fortunatamente ancora non ci sono messi in testa di inchiappettare gli uomini, perché se tu non ti fai inchiappettare sei razzista, perché ti neghi a un negro, hai capito? Ancora così arriviamo. L'Italia è una merda. Sono andato in Spagna, non c'era un cazzo di extracomunitari in mezzo ai coglioni che cagava e pisciava nelle aiuole, non ce n'era uno. Qua siamo pieni, qua ci cagano il cazzo e ci cagano pure nella strada. Venite a Messina, nell'aiuola di fronte al Royal, guardate tempo stretto. Ma cos'è il Royal? Vediamo se ho capito bene. Siamo partiti con una telefonata nella quale questo ascoltatore dice che i comunisti Stalin, cioè, hanno chiuso delle trasmissioni. Stalin, e poi siamo arrivati ad una aiuola, sì, no? Royal, no, davanti al Royal, davanti al Royal, davanti al Royal, che cazzo è una aiuola, sì, davanti a Royal. Dove? Allora io dimmi se vieni, faccio vedere, ti metti sulla nave e ti cagano di sopra. Vieni, questo è quello che dobbiamo sopportare. Salgono sugli autobus e non pagano, e se gli dici qualcosa ti alzano pure le mani. A me no, perché fortunatamente faccio pugilato. Vorrei che qualcuno mi cagasse il cazzo. Poi parliamo di legittima difesa. Li prende a farci il culo fino in Africa. Questo, ci siamo rotti il cazzo. Ci siamo rotti il cazzo. Abbiamo, ormai lo sanno tutti che ci mangiate su questi italiani. Italiani, ci mangiate le comunanine, ci mangiano. Fate tutto gratis, italiani, tutto gratis. Italiani, perché non fate tutto gratis? Levate, non volete, non prendete soldi dal governo, li butterebbero al mare l'indomani. Italiani, tutti buoni siamo con i soldi. Fermo, Mauro. Italiani, italiani, una volta, ora tu pezzi di merda. Ciao. Ora pezzi di merda. Ora se tocchi un extracomunitario, sì, ti denunciano. Ti denunciano, non puoi fare niente. Ciao, ciao, ti ciao. Denunciano. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ti saluti la aiuola lì. Con un proiettore nel Duomo di Messina hanno proiettato delle minchie finte. Beh, direi che è il momento dei filosofi, caro David, eh? È il momento dei filosofi a questo bisogna punto. Bisogna forse mettere le cose un po' in ordine. Bisogna mettere le cose in ordine, anche perché è stato addirittura citato Stalin. È con noi uno dei più grandi filosofi italiani, il signor Diego Fusaro. Buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera a voi da Diego Fusaro. Come andiamo, caro Diego? Le presenze televisive mi sembra che abbondino in questo periodo, grazie anche al signor Parenzo, devo dire la verità. Sì, devo dire che abbondano, ma la mia preoccupazione principale resta la lettura di Aristotele, Platone, Hegel, sempre, non posso farne mistero. Cioè, la cosa fondamentale. Ogni tanto un pornazzo lo guarderà anche noi. Esatto, lettore, esatto. Scusa, immagino. Un filosofo, ma guarda i porno o no? Ma io il godimento massimo lo traggo dalla lettura del Simposio di Platone o dalla lettura di Kant. Quindi posso rassicurarvi su questo fronte, anzi, se posso consentirmi, suggerisco anche a voi la lettura di suddetti autori, perché potrebbe giovare all'incremento della vostra formazione, già peraltro acclarata e assolutamente molto. Però per esempio un professore universitario che ha, come dire, che fa queste letture così importanti, ogni tanto per esempio la masturbazione come si colloca nella sua vita? Come una perdita di tempo oppure un'arte necessaria? Sai, la masturbazione comunque diversi filosofi hanno trattato questo argomento, non è una cosa. Certamente, suddetta pratica è una forma di autarchia egoistica, tuttavia, dove manca il rapporto con l'altro, sì, perché suddetta pratica che voi avete menzionato finisce di fatto per ricondurre l'individuo a una sorta di isolamento programmatico che lo rende simile più a un atomo che non a un membro della razza umana o uno zoon politikon, come lo chiamava Aristotele, cioè un animale comunitario. Perché anche i fenomeni che apparentemente sono sconnessi da relazioni sociali come i fenomeni sessuali chiedono Gramsci Docet di essere letti in una chiave filosofica che li riconduca ai problemi della società o, come li chiamava Marx, agli interessi materiali della società stessa. E in questo caso, scusa, la masturbazione dunque è una forma di alienazione, cioè dire, la masturbazione la vedi in modo negativo, cioè chi è un masturbatore seriale, come il sottoscritto per esempio, o come anche Parenzo, come è noto, o altre persone, devono smettere questa pratica. Per quale motivo? Anche perché ti isola dal resto del mondo, ti isola nella relazione con l'altro? Finisce di fatto per incrementare la grande tendenza del nostro tempo, che è quella dell'autismo acefalo, che isola l'individuo dal tessuto comunitario di cui è naturalmente parte. Per cui la suddetta pratica che voi avete menzionato potremmo definirla tipica e coessenziale del neoliberismo imperante. Beh, adesso voglio dire, la masturbazione però, Parenzo, tu mi insegni, non è... Scusami, non ho capito, il neoliberismo no, come si arriva imperante alla masturbazione? Cioè, no, allora, il legame, lui dice questo, essendo una cosa che ti isola praticamente, è una forma, praticamente, mi corregga, professore, se sbaglio, è una forma coessenziale, coesistente, vive insieme, vive e lotta insieme al liberismo, lui dice, liberismo, cioè dire, questo è il punto. Essendo... Proverò a fare lui su questo punto nodale citandovi in questo caso non un filosofo ma una politica, Margaret Thatcher, la quale ebbe a sostenere che la società non esiste, esiste solo l'individuo. Ottimo. Ebbene, se noi riconduciamo questa questa formula, questa locuzione all'ambito erotico, sì, al nuovo ordine sessuale che si impone in coerenza col nuovo ordine mondiale capitalistico, troveremo, sì, che la pratica a cui voi avete fatto riferimento rispecchia pienamente le tendenze sociali generali del nuovo, sì, ordine, cioè, dunque, dove appunto abbiamo un'atomistica di individui gaudenti, sì, dove, sì, il rapporto stesso finisce per negarsi nella sua alterità, nel connesso con l'alterità. Però scusi, anche in società non liberiste si facevano le pippe, adesso voglio dire, cioè non è che solamente nella società occidentale e dove c'è il mercato, tutto quello che Fusaro considera negativo, c'è la masturbazione. La masturbazione è una cosa abbastanza costante nella vita. Comunque io accetto volentieri questa provocazione. Mi anche permetto, come Diego Fusaro, di replicare dicendo che vi era senz'altro anche nelle società del passato, nei modi della produzione, esatto, del passato, ma mai era divenuta, come è divenuta oggi, oggetto addirittura di encomio entusiastico, qual è quello che voi ne state tessendo a reti unificate, sì, è vero, a livello nazionale. È vero, questo che va, è vero, puntualizzato, va, perché ritengo che sia un punto fondamentale senza il quale non si inquadra giustamente la questione, si resta nell'ambito del chiacchiericcio o anche detto della sfera delle opinioni, sì, non scientificamente. Dunque si può dire meno pippe, diciamo, detto in modo zanzaresco e non fusariano, meno pippe, più socialità, più famiglia, più relazioni tradizionali, più relazioni tête à tête, più relazioni umane, meno pippe, più relazioni. La famiglia è l'ultimo baluardo di resistenza comunitaria al nesso sradicante del mercato che ci vuole tutti atomi consumistici in ambito economico e gaudenti in maniera autistica in ambito erotico e dissolve i legami sociali. Occorre ripartire dalla comunità in ambito politico, la comunità si declina come stato etico, non c'è in dubbio, ambito erotico si declina come famiglia, cioè come comunità immediata basata sul sentimento. La citazione è tratta da Hegel, lineamenti di filosofia. Quindi per lei, professore, il fatto che divorzio sia, sì, no, voglio dire, un praticatore seriale di gangbang, ad esempio, cioè di rassemblamenti, di accoppiamenti con più persone, è proprio il prototipo del taccerismo. Come già dissi nell'altro intervento dell'estate, sì, sì, appena trascorsa, di squadrismo, sì, erotico, squadrismo dove erotico, la comunità, ecco, è negata a favore di forme squadristiche in cui l'individuo subisce l'attacco da più individui che solo fintamente creano una comunità, perché in realtà l'individuo è soverchiato, sì, da altri individui, ciascuno dei quali mira solo alla valorizzazione del proprio plus godimento, per dirla con la canna. Allora io direi di andare in pubblicità. La canna, avete tante citazioni. No, però, no, ma è stupendo, è stupendo. Allora, altre massime fusariane, poco dopo la pubblicità, che magari Fusaro considererà negativa, considererà come dire una sorta di maledizione, però noi ne dobbiamo, siamo vincolati a questa cosa e soprattutto siamo attratti anche dalla pubblicità, semplicemente perché ci porta i quattrini, ci porta i sordi. Fermi. Ma faccio tutto, solo culo niente, capito? Sì, questo l'ho capito, c'è tutto, anche rapporto, tutto. Sì, culo niente. Sì, ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Vuole massaggio romantico, culo niente. Per una notte romantica, culo niente. Impreparato mi coglie, ehi, cosa fa? Capito? Chi glielo spiega a mia moglie? Massaggio tutto. Vai col massaggio romantico, oh, oh, vai con la notte romantica, ah, ah, ah. Ma quanto è brava la Cina. Sì, solo culo niente, capito? Nell'arte della... Ma questo l'ho capito, culo niente, questo ho capito. Manina. La zanzara. Poca figa massaggio. Pippe, pippe, pippe, pippe, molte pippe. Certamente, suddetta pratica è una forma di autarchia egoistica, tuttavia, dove manca il rapporto con l'altro. Perché suddetta pratica, che voi avete menzionato. Direi che questa frase del professor Fusaro rimarrà tra le perle della zanzara, certamente. Caro Parenzo, nel frattempo mi sono arrivati i seguenti messaggi. Uno da parte del mitologico Omar Pedrini, il quale Giustamente mi ricorda che Woody Allen scrisse: masturbarsi è fare l'amore con chi si ama veramente. Ah, certo, bravo. Masturbarsi è fare l'amore con chi si ama veramente. Voglio ricordare anche una favolosa descrizione dell'arte masturbatoria da parte di Philip Roth, nel famoso classico della letteratura americana. Il lamento del prepuzio, no? No, il lamento di Portnoy, certamente. Una specie di manifesto generazionale del 69, capitolo seghe. Seguitemi bene, che c'è grande classe nella descrizione anche di cose che sono apparentemente. Grande Roth. Allora, oppure mi piegavo in due sul mio pugno in azione con gli occhi chiusi. Sia la bocca ben spalancata per ricevere quella salsa appiccicosa di panna e cif sulla lingua e i denti. Sebbene non di rado, nella mia cieca estasi me la beccassi tutta sui riccioli, come un'esplosione di tricofilina. Attraverso un mondo di fazzoletti sgualciti e Kleenex appattolati e pigiama macchiati, agitavo il mio pene turgido e infiammato nell'eterno terrore che la mia schifosità venisse scoperta e qualcuno mi venisse addosso proprio nell'istante frenetico in cui deponevo il mio carico. Allora, chiusa questa parentesi, volevo intrattenere ancora il professore Fusaro, che tra l'altro è in uscita con un libercolo che possiamo anche ricordare, edito da Einaudi, non da casa editrici Pizza e Fichi, come dire. No, Fusaro, vogliamo ricordare il titolo del suo meraviglioso saggio in uscita? Con piacere, caro Cruciani. Il libro si chiama Pensare altrimenti, filosofia del dissenso, edito da Einaudi, e l'autore sono io, Diego Fusaro. Ecco, benissimo. Io però le suggerirei però, professor Fusaro, di fare il prossimo saggio, le suggerirei di farlo sul sesso. Avrebbe sesso e filosofia, straordinario. Cioè, sarebbe con tutte le cose che sta dicendo noi in questo momento, la masturbazione, quasi per capitoli, la masturbazione, le gangbang, tutte interpretate filosoficamente alla luce della società attuale. Sarebbe un grande trionfo, soprattutto di vendite. Però questo qua mi consenta di dire che nil novi, nel senso che sul rapporto tra Eros e filosofia l'intera tradizione occidentale è venuta cimentandosi, a partire almeno da quella pietra miliare del pensiero occidentale che è il Simposio di Platone, il cui tema portante è esattamente quello da lei enunciato poc'anzi, cioè il rapporto fra Eros e filosofia. Assolutamente. Da Socrate in poi è centrale nella nostra appunto civiltà. Però io la invito a fare questo saggio. Vabbè, comunque, senta, immigrati marocchini e congolesi stuprano, cosa drammatica naturalmente, una polacca e una trans peruviana a Rimini. Cos'è, un nuovo vento di globalizzazione? Ma forse è la prova provante del fatto che la cosiddetta società multiculturale si è pienamente realizzata in forme rovesciate. Cioè? No, ma non cade anche lei in questo. Perché? Ove in luogo del rispetto delle culture e di un'umanità finalmente realizzata nel reciproco riconoscimento, sì, uso qui la categoria hegeliana, sì, del riconoscimento, si dà una sorta di odio tra le culture, dove di culturale non vi è più nulla esattamente, e cioè abbiamo le scene a cui si è tragicamente assistito. Cioè meno migrazioni, allora meno migrazioni significherebbe anche meno stupri, secondo lei, professore? Io non ho mai asserito ciò che lei ha detto. È una domanda. Io penso che stupri e violenze esistano a prescindere dall'immigrazione. Ciò non di meno è evidente che con i fenomeni migratori queste pratiche sembrano aumentare più che diminuire. Ora sarebbe però del tutto sciocco, superficiale, sì, e forse anche criminale ritenere che i migranti in quanto tali siano stupratori. Sarebbe un'equazione davvero insostenibile. Ecco. Ciò non di meno è altrettanto, sì, insostenibile fare l'elogio a priori, con in stile boldriniano, dell'immigrazione come qualcosa di intrinsecamente positivo. Ecco, anzitutto per i popoli che sono costretti a migrare, i quali popoli, se potessero, sì, evidentemente si guarderebbero bene dall'espatrio, dall'abbandono, sì, delle loro radici, della loro cultura. Magari la gente ha voglia anche di cambiare aria, di andare in un altro posto, di vedere dei mondi diversi, andare via da un'altra parte. Vi è una distinzione fondamentale: se io e lei vogliamo farci un grand tour a Berlino, sì, o a Lisbona, siamo ovviamente titolati a farlo e può essere qualcosa di altresì dilettevole. Sì, sì. Altra cosa è la migrazione coatta a cui sono costretti i popoli bombardati tramite l'imperialismo etico, l'interventismo umanitario, sì, dell'Occidente. Sì. Pensi anche solo tra i casi inter alia, pensi anche solo alla Libia, la quale Libia aveva un governo legittimo con Gheddafi, è stata destabilizzata a suon di bombe, E ciò ha determinato il passaggio da quella che lei chiama una dittatura. Ma io so che a lei piace anche la Corea del Nord. Sì, sì. Mi sa che il professore... Ho scritto qualche giorno addietro un articolo sul Fatto Quotidiano. Una mezza follia, professore. Sì. Nel quale questo è il suo punto di vista e lo prendo come un complimento. Sì. Dove sostengo che peggio della Fammelo sentire, che ha scritto. Peggio della Corea del Nord vi sono solo gli Stati Uniti d'America. Se noi vogliamo essere sinceri, a quanti stati ha dichiarato guerra la Corea del Nord? Vabbè, che c'entra, non ha bisogno. Scusi, quante bombe atomiche ha sganciato nessuna. Popoli? Perfetto, nessuna, gli Stati Uniti d'America, ai noi, ne hanno sganciate. Ora, io sono il primo a sostenere l'esigenza che la Corea del Nord si disarmi, posi le armi. Ma io sto dicendo, lei sostiene che gli Stati Uniti sono uno stato criminale, questo io penso che il disarmo debba avvenire a pari condizioni. Io mi disarmo se anche tu ti disarmi. Nel Far West, quando si puntavano le pistole, i due cowboys, il disarmo avveniva contestualmente. Senta, un'ultima cosa, la mia e tu posi la tua. L'America non può chiedere, come stato poliziotto mondiale dotato di una special mission, di posare le armi a tutti i popoli del pianeta e solo essi, Stati Uniti d'America, mantenere. Un'ultima cosa, professore, chiudiamo in bellezza. Asimmetrica. Ecco, per un professore come lei, marxista, hegeliano, eccetera, come si collocano in questa società contemporanea che lei tanto critica i transessuali? Questo è interessante. Torniamo a bomba alle cose che mi interessano di più. Cioè, la transessualità è anch'essa frutto di una, cioè, di questo mondo mercificato, di questo mondo troppo marcio. Mi dica, professore, mi illumini. Fermo restando che occorre sempre rispettare la vita inimitabile di ognuno. Sì, perfetto. Ciò detto, proprio come negli anni 60 andava per la maggiore il mito del pater familias, perché eravamo in un capitalismo autoritario a base borghese, oggi va per la maggiore invece il mito transessualista dell'uomo che appunto è transessuale. Perché? Perché il capitalismo stesso impone oggi un paradigma che non è più quello autoritario anni 60, ma è il nuovo paradigma, potremmo dire così, fluido, liquido, no border, che non ha più confini, e che ha rimosso ogni identità anche il sesso. Ma certo, ce lo insegna Gramsci, le forme della sessualità in una società sono sempre in stretta connessione con le forme della produzione, con i modi economici della produzione. Dunque, più capitalismo, più trans. Questo è il punto. Ma io l'ho scritto nel mio libro, appunto, prima citato, Pensare altrimenti. Le forme della sessualità vanno interpretate ermeneuticamente alla luce delle forme sociali della produzione. E qui siamo al top. Grazie, professore. A presto. Grazie, arrivederci. A voi. Arrivederci. Saluti da Diego Fusaro. Questo è interessante, più capitalismo. Mi piace molto anche. Più capitalismo, più trans. Questo mi piace molto quando dice saluti da Diego Fusaro. Mi piace molto. Si può isolare quello e magari montarlo nella sigletta. Do un suggerimento, per carità, all'artista regista. Dopo quella sequela di insulti che in genere introducono la nostra professione, bastardo, maledetto, stronzo negro. Saluti da Diego Fusaro. Questo sarebbe un bel inizio. Raffaele, provincia di Salerno, vai. Ma come ti sembra questa idea? Come ti sembra? Sì, allora, non male. Lucia, tu ti sei rammollito dopo senti, la pausa. Me lo dicono 3-4 persone. Allora, no, aspetta, adesso mi avete rotto. Mi avete rotto i coglioni. Una percoca nel vino. Senti, Raffaele, mi avete rotto i coglioni. Chiudete un attimo il microfono a questo cretino. Un attimo, adesso ti faccio riparlare. O ti interrompi, oppure o ti fermi, oppure ti abbasso il microfono. Raffaele, che cosa vuoi fare? Dimmi. Allora, fammi parlare. Allora, quelle 4-5 persone di cui non me ne frega assolutamente nulla, che mi scrivono ti sei rammollite, semplicemente perché ho detto una volta a 2-3 ascoltatori che augurare lo stupro alla Boldrini è una cosa negativa. Scusatemi se ho detto una cosa di questo tipo. Perdonatemi. Dice ti sei rammollito, non attacchi più la Boldrini come prima. Ragazzi, ma che cazzo dite? Io le persone le attacco per le idee, no? Quando uno dice bisogna stuprare o mandare gli stupratori a casa della Boldrini, ma io cosa volete che dica? Non mi è arrivato nessun ordine dall'alto, me ne fotto di tutti gli ordini che mi arrivano dall'alto, me ne sono sempre fottuto e sempre me ne fotterò, non me ne frega nulla, io ragiono solo con la mia testa. Non è che se qualcuno mi dice sai, sì è vero, la signora Boldrini ha un dossier contro di noi, contro la Zanzara, di cui non me ne frega nulla. Ma non so se è un dossier, sì, un dossier, te lo dico io, ha un dossier contro, ma non lo so se ha ragione, ha torto, ma sono, non me ne frega niente, ma no, sottoscrivilo pure, non me ne frega niente, sottoscrivi una cosa contro te stesso, mi sembra anche ridicolo. Sì, esatto, sì. Allora, stupido, ha un dossier contro di noi, alto così, la cosa è già ridicola, è già patetica il fatto che il presidente della Camera si occupi di noi, ma comunque lasciamo perdere. Ha un dossier in cui raccoglie frasi dette contro di, siccome ha 50 persone che lavorano per lei, per l'ufficio stampa del presidente della Camera, troppe, troppe, posso dirlo, troppe persone, ma chi se ne frega, sono soldi, anzi no, sono soldi nostri, dunque mi incazzo un po'. Comunque, un dossier alto così contro di noi, e ogni tanto chiama qualcuno incazzandosi per quello che viene fuori da questa, chiama o lei o chi per lei, mi hanno detto direttamente lei, io di queste cose me ne frego totalmente. Dopodiché, se qualcuno interviene qui e dice che bisogna stuprare la Boldrini, per me è un cretino, un criminale, punto e basta, cioè punto, per cui non c'è nessuna difesa, c'è la difesa di una roba normale che è quella della violenza. Io sono contro qualsiasi forma di violenza, chiaro? Ma è un criminale che dice che deve... E allora cosa vuoi da me? Adesso mi scateno con te, cosa vuoi da me? Ti sei ammollito. Parenza invece è stato concepito. Ma vai a cagare, tu e tu ha fatto un bidito. Perché te è una testa di merda, Parenzo. Vabbè, ciao Aldo da Milano, mi hai rotto i coglioni, Aldo da Milano, vai. Dimmi. Aldo. Oh, Aldo, ma sì, sono qua. Dimmi, che vuoi? No, niente, dicevo, a proposito delle case occupate, delle associazioni che occupano le case, ci sono pure a Milano, a me mi hanno ospitato 6 mesi. Mi ero separato, non avevo una casa, mi hanno ospitato una di queste associazioni che occupa le case. Male, non bisogna mai occupare nulla. Nemmeno Lucia, però voglio dire, non bisogna mai occupare nulla. Non bisogna occupare, ma dove li metti questi agenti? Questi ospitano. Vai a trovarti una casa come tutti. Ma Lucia, io voglio dirti una cosa. Vai a trovarti una casa come tutti, e me ne frego. Vai a trovarti una casa come tutti, fai i concorsi, fai un concorso per le case popolari. Fai i concorsi per le case popolari, chiaro? No, fai pietà, mi fai pena veramente. Dai, che vuol dire fai pena? Che vuol dire fai pena? Che concorso fa? Non mi interessa, qual è il problema? Non si può occupare. Ma una soluzione ci vuole, non una famiglia che va in mezzo alla strada. Una famiglia va in mezzo alla strada è una parola grossa, innanzitutto. Che vuol dire la famiglia in mezzo alla strada? Il lavoro l'hanno fatto flessibile. Vabbè, ma adesso non parliamo di queste cose. Non è che non parliamo di questo. Se bisogna parlare dell'umanità, parliamo dell'umanità. Se devi fare il net booster, che hai detto? Parla italiano un attimo, fammi fatti capire. La parola è grossa, cruciale. Se devi fare il net booster, l'uomo dal pisello lungo, e Parenzo deve fare il Peppino De Filippi della situazione. Va bene, facciamo questo gioco. Se vuoi parlare qui non c'è, nessun gioco. Qui non c'è nessun gioco. Cosa vuoi? Te l'ho detto, Crucia, che quando una famiglia va in mezzo alla strada, è giusto occupare. Non è giusto, sarebbe giusto che il comune direbbe questa famiglia va in mezzo alla strada, facciamo qualche cosa. Questo uomo è stato sbattuto, questo uomo ha perso il lavoro, perde la casa. Ma tu vivi ancora in una casa occupata o no? No, io ho preso un abbandono industriale, mi sono arrangiato i danni, gli uffici. Però quello che voglio dire io, quando un uomo perde il lavoro, ma com'è? Il lavoro è flessibile, l'affitto è rigido, l'assicurazione della macchina è rigida. Ciao Aldo, chiama Focus Economia, va. Ciao. Babbo, ciao Giuseppe, io ti voglio bene. Quel bastardo, questo bastardo che hai accanto, questo schifoso, sei un gabinetto schifoso. Mentre lei sta chiamando qua, a casa sua, sì. Sua moglie si sta divertendo. Mia moglie è qua accanto a me, bastardo, guarda nella puttana di tua moglie, perché tu sei riccione, tu sei, querelami, merda, querelami. Tu sei riccione come Macron. La Zanzara. Ancora una notte di luna piena. Tia Santrang, Tia Nang e Lin Kauno sono eccitate come pantere, anelano alle loro prede e il cacciatore le ha accontentate, le ha guidate in una notte di caccia e naturalmente le prede erano gli zingari. A tavola! Che pizza! Roncadin! Che pizza! Roncadin nel banco freezer. Vi presenta La Zanzara. Sto immaginando un tavolo con Razzi, Tavecchio, Malgioglio e Tim Yong-Yang. Ma che immagine è? Che immagine è? Vittorio Feltri, dopo l'intervento di ieri, ha praticamente certificato la propria demenza. Cioè, tra lui è un vecchio ubriaco che gioca a scopone al bar, onestamente non trovo nessuna differenza. E a me non me ne frega niente. Allora, nell'odierna puntata della pregiata trasmissione, che purtroppo perde la conduzione del signor Parenzo, cioè dire l'aria che tira sulla televisione La 7, era presente anche il sottoscritto. Ecco qua, sì. Un secondo che sono entrate. Prego, signora. Chi è? Chi è? Prego. Chi è? Prego, sono al telefono, scusi, mi dica? La servitù, chi è? Sì, fammi parlare un attimo con la servitù. Passami un attimo. Passami la cameriera. Mi dica, signora, scusi, che sono. Mi passi la cameriera un attimo. Ah, grazie. Mi passi la cameriera della. Mi passi la cameriera della tua. Grazie molte. Mi passi la cameriera un attimo? Grazie. Ecco. Mi passi la cameriera. Mi passi. Sì, sì, va rifatto totalmente. Grazie molte. Pronto. Perché non mi hai passato la cameriera della stanza? Perché l'anticamera, la suite, diciamo, è costituita da un'anticamera e da una camera. Quindi gli alberghi, come tu sai, come tu non sai, di un certo livello, vengono 2-3 volte al giorno, perché si devono sincerare, che anche quando tu passi soltanto mezz'ora in camera, magari ti appoggi al letto, loro si sincerano poi di risistemartelo in modo che quando torni... Cioè, per la sera, sì, per la notte. Per la notte. Anche le tende, ad esempio, all'imbrunire le schiudono loro. Ma a che serve, scusa, se uno poi le vuole... No, vabbè, però all'imbrunire. Ma cosa cazzo vuol dire? Chiudono, cioè tu non devi fare neanche la fatica di chiudere le tende, capito? Sì, ma è una perdita di tempo, è una. Viene utilizzato male il personale, viene utilizzato malissimo. Voglio anche spiegarti questo, ad esempio, verso le 7, adesso io sono qui in camera, quindi non ho fatto. Non gli ho dato modo di farlo, ma glielo farò rifare con lo straordinario dell'orario che faranno alle 21, appena io vado alla cena di gala e lascio la stanza. Sì. Loro rientreranno qui, risistemeranno ovviamente, certo. E mi apriranno addirittura il letto, cioè metteranno il lenzuolo. Sì, esatto, me lo metteranno già in modo tale che io possa poi distendermi. Ti piace quindi, la servitù? Ti piace avere intorno la servitù? Così. Sì, come quello è la servitù. Trattasi della servitù, sì, trattasi della servitù. Però è di grande aiuto questo. È di grande aiuto. Allora, dicevo che oggi di leggere dei libri, delle cose. Assolutamente. Dicevo che oggi, durante la trasmissione di Parenzo della Reghetira, c'era a un certo punto un meraviglioso ultima puntata, un meraviglioso collegamento con una spa per i cani. Una spa per i cani, in cui per 150-180 euro c'era un trattamento che comprendeva anche l'ozonoterapia. Allora, ragazzi, in questo caso, io l'ho detto chiaramente e lo ripeto qui alla Zanzara: trattasi di tortura per i cani. Di una vera e propria tortura. E gli animalisti, se sono seri, se sono persone con un po' di cervello, un po' di sale in zucca, dovrebbero liberare questi cani. Cioè, portare i cani in una spa e pittare le unghie, fare la manicure, dipingerli non so dove, e farli fare ai cani l'ozonoterapia. Ma che cazzo è l'ozonoterapia? O addirittura il bagnetto? È una follia, i cani devono vivere. Questi sono contro i cani. Queste persone, quelli che guadagnano su queste cose sono dei geni, tra cui il proprietario di questo posto che si chiama Costa, sentiamo. Quanto costa lì fare la spa? Dipende dal trattamento che uno decide di effettuare al proprio cagnolino. No, vogliamo il trattamento lux, quello massimo, ricchezza lux assoluta. 150-180 euro. Bene. Viene messa la piccolina dentro una vasca di idromassaggio che è qui alle mie spalle, dove viene fatto l'ozonoterapia. Come vi faccio vedere adesso, Martina sta per effettuare un bagno che va a rigenerare completamente la cute e a rilassare la cagnolina. Ecco, vediamo un attimo, il bagno in diretta, come si chiama la cagna lì? Come si chiama? Martina, la piccolina. No, loro la chiamano la piccolina. È un cane, una cagna, la cagnetta. Le cagne sono altre. Come si chiama? Le cagne sono altre. No, Martina. Come si chiama? Martina. Martina. No, ma il bello è che qualcuno contesta la parola cagna, cioè siamo arrivati a politicamente corretto, per cui non si può dire nemmeno cagna, no, perché si dice effettivamente cagnetta. La cagna, no, oh, non si può dire cagna. Ma non è che è spregiativo, però la cagna, la cagnetta, no, insomma, dire. Andiamo avanti, andiamo avanti, perché ho visto cose incredibili oggi. Liberate questi animali! Gli animalisti dovrebbero fare i raid, lì dovrebbero fare i raid, dove ci sono le spa per i cani, per liberare i cani, portarli nella natura dove vogliono, non fare la manicure, portarli a fare il bagnetto, ma vaffanculo, va, l'ozonoterapia, ma che cos'è l'ozonoterapia? O cosa può servire a un cane l'ozonoterapia? Mi fanno incazzare queste cose, guarda. La manicure al cane, come vi è venuta in mente? Scusi, veramente lo chiedo con l'affetto. Ma sono richieste speciali che vengono fatte ogni tanto dai clienti, specialmente in questo caso che la piccolina ha una festa del compleanno del padre, che è un personaggio noto di Londra. La figlia ci tiene che anche la cagnolina sia elegante per questa serata. Sì, me ne avete già mandate tante, sono vere, sono scoregge vere, Parenzo, sono flatulenze. Sono flatulenze vere che sono prodotte da persone che me l'hanno mandate quando abbiamo introdotto questo argomento nella prima puntata. No, perché ho detto e ho ripeto, ho anche fatto una confessione, sono affetto da una forma gravissima di flatulenza, di meteorismo. Tante, c'è una cosa bella di questo che fai. Io voglio chiamare un professore, sì. Il professor Antonio Iannetti, che è un esperto, è un gastroenterologo, esperto, Vespa, sempre, esperto di queste cose qua, esperto di queste cose. Sai che Vespa? Sì, io non credo che parli di flatulenza, però questo è un gastroenterologo. No, però dico, è un autorevole professore che va da Bruno Vespa, figurati. Professor Iannetti, voglio chiamare il professor Iannetti. Chiamiamo, non mi ha mai invitato. E chi se ne frega, chiamiamo il professor Iannetti. No, ma dico, non capisco perché. Professor Iannetti? Sì? Sono Cruciani, buonasera. Mi dica, Cruciani? Giuseppe, Cruciani Giuseppe. Aspetta, paziente zero, male. Paziente zero, Cruciani Giuseppe, affetto da meteorismo, flatulenza. Ho capito. Conduttore di un programma radiofonico, chiamasi La Zanzara. Ah, ho capito. Insieme al signor Parenzo David. Sì. Come faccio a guarire? Anche adesso, cioè, non riesco, è proprio una cosa automatica. Che mi succede? Senta, guardi, il discorso della flatulenza e comunque del meteorismo è un discorso molto frequente, come lei potrà immaginare, quindi io lo sento non una, ma 50 volte al minuto secondo. E lei che consigli dà? È chiaro che si deve vedere caso per caso, sì, perché c'è... bisogna fare le analisi e tutto. A parte le analisi, intanto vedere clinicamente, visitare la persona. Cioè la pancia, anche se è l'ingrossamento dello stomaco, cose di questo tipo. Se è dolente, se ha dei segni particolari che inducono il medico a fare le ricerche. Ecco, ma secondo lei la liberazione fa bene o no liberarsi? Qualcuno dice di sì, ho letto da qualche parte. Cioè la liberazione fa bene? La liberazione, cioè liberarsi anche in maniera... Assolutamente sì. Ecco, vedi Parenzo, fa bene, è ottimo liberarsi. Cioè inutile che tu però non fa bene farlo, dottore, glielo spieghi, che si occupa anche di Galateo. Non fa bene farlo se vai nella stanza del direttore della Confindustria o nell'ascensore. Certo. Non fa bene farlo. Scusi, ma quando c'è l'odore o quando non c'è l'odore, ha una sua importanza dal punto di vista della gravità della situazione oppure no? Ma diciamo che dunque l'odore è molto variabile, quello lo sappiamo, personale, soggettivo, eccetera, per cui alle volte dipende dall'alimentazione, a volte dipende proprio dal soggetto. Ognuno ha un odore come vale proprio. D'accordo, ma adesso fare quando... dipende per esempio dal microbiota intestinale. Se io faccio delle scoregge che non sono inodori, è meno grave la situazione? Penso di sì, in linea di massima sì. In linea di massima sì, questo è importante. Sono molto maleodoranti, possono indicare in modo specifico una particolare situazione di dismicrobismo. Ecco, come detto, un dismicrobismo? Dismicrobismo, vuol dire che il microbiota è un po' alterato. Sì, ecco, ma la domanda fondamentale che volevo fare, una flatulenza continua, un meteorismo continuo, cioè la scoreggia continua tutti i giorni, bisogna farsi visitare, sì o no, oppure è naturale, è normale? Probabilmente. veramente, come dice lei, una flatulenza continua è così importante, sì, potrebbe, dico solo potrebbe, potrebbe, ecco, certo, sottintendere uno stato patologico, uno stato patologico, sì, un'infezione, la presenza di diverticoli. Capito? Per cui è opportuno, sì, sentire il parere di un medico. Fa schifo quello che fa. Ma fa schifo quello che faccio. Anche tu scorreggerai qualche volta, o no? Anche al professore, no, capiterà di scorreggiare. Ma che io non lo faccio, ma se ma lo non lo fai, tu lo scorreggi mai. Ma tu a un certo punto stai fermo così, oddio, mi scappa da scorreggiare e vado in bagno. Ma non ti succede quasi mai, beh, dai. Cerco di trovare un posto appartato, un posto dove non mi si senta. Ma scusi, chi prova soddisfazione? Perché c'è gente che mi chiama e dice: io provo soddisfazione quando emetto anche delle scoregge molto maleodoranti, perché intorno si crea un po' di, no? Un po' di panico, eccetera. Ma queste persone, vabbè, bisogna condannarle oppure no? Io direi di, vabbè, no. Qui adesso lei mi fa delle domande che di medico non hanno quasi no, nulla. Di psichiatrico forse. Senta, c'è un'altra cosa però che riguarda i vegani. I vegani dicono sostanzialmente che mangiando, non mangiando più la carne, insomma i prodotti di origine animale, non si scoreggia più, praticamente dicono. Non è vero, al contrario, quando si mangia un eccesso, comunque un'abbondanza di scorie, quindi parliamo di frutta, verdura, tutte cose che fanno bene, intendiamoci, gli annaschi. Sì. Però se se ne abbonda è inevitabile che la formazione di aria sia molto maggiore. Cioè dunque scorreggiano di più, puzzano di più. Ma assolutamente anche, ma anche le scorreggie stesse puzzano di più. L'odore, ripeto, attiene al microbiota, quindi ci può essere il vegano che ha delle flatulenze maleodoranti e quello che invece no. Però sicuramente emettono di più in teoria. Quello assolutamente sì. Direi proprio male che abbiamo messo ordine in questa importante diatriba, diciamo. No, ma è importante perché loro dicono, più volte Red Ronnie mi ha detto: ah, io non faccio più, non scoreggio più. Red Ronnie di quello deve parlare, di meteorismo, Red Ronnie. Va bene, professore, grazie. Okay, verrò da lei, verrò da lei con vari esami. Fate presto. Come dissero da noi, fate presto, come dicono in passato. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Lorenzo, tu sei il più grande culatore del mondo. Cattiva! Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presento. Avevamo un sogno. Offrire ad aziende professionisti una nuova ed innovativa esperienza di gestione del personale. Reinventare il modo di amministrare, gestire e organizzare il personale con le uniche piattaforme realmente integrate, cloud e mobile. Il sogno di portare nel mondo il nostro software HR. Oggi il sogno è realtà. Le piattaforme HR Zucchetti, scelte da oltre 25.000 clienti, sono leader in Italia. Zucchetti, il software che crea successo. Ste, sei pronto per i weekend? Giulia, vorrei dire il weekend. Guarda che 2 giorni non bastano per scoprire l'Italia. Oh, addio divano, Stefano, preparati al peggio. Ma no, preparati al meglio, il meglio del nostro paese. Paesaggi da togliere il fiato, borghi meravigliosi. E piatti tipici deliziosi. Mi hai convinto, Giulia, non vedo l'ora di partire. Ste, tu non vedi l'ora di mangiare. Radio 24 e Touring Club Italiano ti portano in alcuni tra i luoghi più belli e suggestivi del nostro paese. Passaggio in Italia, in onda in RadioTube, il sabato dalle 16, su Radio 24. Questo sabato, non perderti Mantova, culla dell'arte italiana. Ascolta e scarica la radioguida su radio24.it e su touringclub.it. Favorire i documenti, è motivo della visita. Voglio esportare qui i miei prodotti. Come mai siete in due? Lui è il mio temporary export manager, Seles, un esperto del mio settore. Conosciamo Seles, tutto in regola. Quanto vi tratterete? Solo pochi giorni. Grazie a Seles incontreremo soltanto clienti interessati. Benvenuti nel nostro paese. Con Seles non ci sono frontiere al tuo business. Chiamaci 800-720-720. Seles, da 30 anni export da specialisti. 800-720-720. Fiat Professional presenta la super rottamazione. Chuck Norris rottama all'improvviso, senza nessun anticipo. O sei Chuck Norris o hai bisogno di Fiat Professional. Oggi con la super rottamazione hai fino al 40% di sconto sulla gamma Ducato, Talento, Doblò e Fiorino in pronta consegna. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiatprofessional.it. Perché Chuck Norris non ama, rottama. La Zanzara. Tuccia, il culo della panna, ti sto dicendo, io devo lavorare, quindi non mi fermo per parlare con te. Se vuoi mi senti, se non mi senti in culo, metto giù e me lo metto, l'ostia, non è che sto qua. Sei giù. Sì. Buona, ciao, salute, Beagle. Teste di cazzo razzisti, teste di cazzo razzisti, chi sono gli stupratori di Firenze? Due carabinieri italiani, a me mi fanno molto più cagare questi carabinieri italiani di merda, a cui auguro la morte e svariate sofferenze a livello fisico, piuttosto che gli stupratori di Rimini. Siete delle merde, merde, voi e i carabinieri. Questo è vergognoso, questo ascoltatore è una vergogna assoluta, ho voluto mettere apposta questo messaggio. Certo, ma è uno. Per dire che questo cretino, certo, ma è uno, questo imbecille. Mentre non ho sentito grandi telefonate di persone che chiedevano, cioè, si esprimevano rispetto al terribile stupro di Firenze che ha visto protagonista. No, hanno chiamato delle persone, forse eri assente, forse stavi dormendo. Purtroppo allora, non ho mai dormito. Innanzitutto, come è chiaro, ancora non si sa nulla. Questo caso di cronaca non divide così tanto. Ma non c'è nulla di certo, non c'è nulla di certo ancora. Passiona. Ma cosa c'entra? Dai, nelle forme sono diverse. Perché al giornale Il Tempo Libero non c'è stata un'aggressione come in quel caso? Questo. Dai, sono modalità diverse. Ma come diverse. Mai? Sepolcri imbiancati, come mai? Dai, è una cazzata. Perché difendete le donne solo quando vengono stuprate dai negri? Perché? Diciamola tutta. Ma non perché? Dire cazzate, stai dicendo perché? Delle puttanate inaudite. Perché? Mi fate schifo. Perché difendete, parlate delle donne solo quando vengono stuprate dai stai medici, dicendo perché? Stai dicendo delle lo cazzate, chiedo te, lo chiedo a questi giornali e giornaloni e giornaletti che per settimane ci hanno raccontato giustamente dello stupro di Rimini, ma perché i politici non intervengono con la stessa veemenza sui carabinieri? Come stai mai? Dicendo perché una cazzata, perché non ho letto una dichiarazione quando, di questi? Se ti fermi perché? Te lo spiego quando, perché neppure un tweet quando ci sarà perché non lo quando merito? Quando ci sarà, quando i carabinieri saranno dichiarati colpevoli perché? E quando perché? I carabinieri sarà accertato perché? Ma perché cosa? Non si sa un cazzo ancora. Non dire cazzate, non si sa niente ancora. Non dire minchiate, non si sa niente. Sta accusando due carabinieri. Tu dovresti esserlo giornata. Tu dovresti esserlo garantista. Non si sa niente giornata. Sui carabinieri ancora così, vergognati, non si sa niente sui due carabinieri. Non meritano quelle turiste americane. Non stai parlando, parla da solo. La vostra cronaca parla da solo, va, parla da non solo. Non la meritano la vostra cronaca. Parla da solo. Americane. Vergognati, non si sa niente sui carabinieri. Vergognati, non c'è ancora nulla di certo. Non si sa nulla di certo. Vergognati. Ci sono per voi stupidi serie A e stupidi vabbè, serie B. Parli, abbiamo parli. Capito. Ma non c'è ancora uno stupro. Non è accertato. Anche in pubblico, manco una telefonata perché erano bianchi. Te lo dico io, Franco da Bergamo. Capito? Te lo dico io, Franco da Bergamo. Dai. Vergognatevi. Ma vergognatevi che se non si sa nulla di certo. Ma che cazzo dici? Sei impazzito? Vergognatevi. Franco da Bergamo, adesso ti faccio Buonasera. Dove Franco. Sono gli indignati speciali? Dove sono gli indignati? Abbassate un attimo l'audio. Franco, vai. Vai. Allora, buonasera. Può sta zitto il signor Parento? Io vorrei parlare. Mi chiamo Franco Gigliani. Ah, Franco. Non parlo. Ciao, Giuseppe. Vorrei parlare esclusivamente con te. Ma no, adesso. Con quell'altro signore. Franco, scusami, Franco. Non ho nessuna intenzione di parlare. Franco, se uno. Nell'ultima puntata della Zanzara, il signor Parento. Sì, ma lo sappiamo quello che è successo, dai. Il terrorista Sergio Ramelli. Vabbè, sono chiesto scusa e spiegato. Ho già chiesto scusa e spiegato. Ho già chiesto scusa. Franco, però, scusami. Franco, scusami. Un attimo. Però scusami, se uno entra dentro questa trasmissione, non è che puoi dire no, con Parenzo non parlo. Tu dimmi. Va bene, io volevo parlare con Cruciani. Beh, dimmi quello che devi dire, dai, dimmi quello che volevo devi dire. Volevo solo ricordare questo. Allora, l'episodio delle due turiste americane violentate, tra virgolette, dai carabinieri. Benissimo. Allora, se la cosa è vera, io voglio ricordare quello che dice un grande italiano. Sì. Giorgio Almirante nel 1981 proponendo la doppia pena di morte per i terroristi neri, terroristi chiese la pena di morte nell'81 Giorgio Almirante, un signore davanti al quale il signor Parenzo dovrebbe alzarsi in piedi e stare zitto. No, lo considero, no, io con lei non parlo e se, zitto, non me ne frega niente di lei. Signor Parenzo, stia zitto. Ma perché no? Non mi trovo, se non me ne frega niente di quello che dice lei. Televisione. A tanto spiazzo, faccia parlare me. Non ho capito. Dal mio punto di vista lei può andare a fare il culo e tirare anche il gabinetto, la carta e tirare l'acqua. Lei si trincera dietro il fatto che lei è ebreo. Gli ebrei sono intelligenti. Ma cosa c'entra? Io mi trincero dietro al fatto che ho una causa pendente con lei per minacce. Io ho una causa pendente con lei per minacce. Per non dire altri. Voglio concludere, mi scusi. No, però scusi, Franco, non ho capito adesso cosa c'entra. Tu dici, Almirante voleva la pena di morte, voleva la pena di morte. La storia dei carabinieri è una storia vergognosa. Se c'è una pena, mettiamo 10 anni, meritano 20 anni, il doppio, perché è vergognoso. L'ho già detto io prima. Poi di dire una cosa. Facciamo un piccolo ragionamento. L'Italia è piena di episodi di violenza, Rimini. La ragazza polacca e il suo compagno, lei, non voglio raccontare, tutti sappiamo quello che ha passato questa povera ragazza polacca. Io ho contatti con la Polonia e ho saputo delle cose da vergognarci, Allora, che strano, siamo tutti incazzati, indignati, perché sappiamo che gli invasori ne fanno di tutti i colori. Ripeto, gli invasori tu li consideri, degli invasori? Salta fuori. Mi scusi, posso finire? No, sto dicendo, li consideri degli invasori? Fuori, guarda che caso, in questa Italia di merda, una delle poche cose che è degna di rispetto è la benemerita. Qualcuno getta fango sulla benemerita. Vogliamo indagare, vogliamo sapere solo una cosa. Che cosa? Chi sono queste due turiste americane? Vogliamo sapere qualcosa? Cioè, vogliamo sapere qual se è il tuo sospetto? Non sono musulmane? Ma vogliamo che c'entra? Non sono musulmane. Non sono militanti nel movimento Antifa? Che negli Stati Uniti peggio ne fa una le no, fa però peggio, scusami Franco, scusami adesso queste due ragazze l'unica cosa che si sa è che hanno stipulato prima il vino, come dicono io, a vacanze di Natale, prima vino. Cretino, lei è un cretino, Parenzo, è un cretino, perché sono un cretino. Film Vacanze di Natale, chiamate Iervino ubriaco. Questa è una battuta che sono un cretino fa. Lo fanno tanto. No, è la canza di Natale. Un po' di vino mi danno dell'ubriaco. Ma non so neanche di cosa si occupa. Dobbiamo occuparsi anche di gabinetti, per quanto mi riguarda. Non ho idea io. Allora, però, non ho mai letto nulla di suo, non so cosa sia, non ho idea. Però scusami Franco, allora la questione è semplice, non puoi dire non puoi mi mandava dei messaggi di minaccia sul telefono. Vabbè, quelle sono affari vostri. Allora, certo. No, io dico una cosa, Franco Ziliani sta dicendo una cosa molto molto molto grave. È un dubbio che mi no, sta dicendo. Ho capito, stai dicendo. Poi, se è vera la cosa, i due carabinieri devono pagare nella maniera più dura. Non c'è nessuna giustificazione per un atto del genere. Ma non secondo te in atto è un atto violenza su una donna va punita nella maniera più violenta, Franco, nella maniera più cruda. Tu senza sei tu agli stupratori cosa faresti, Franco? Allora io agli stupratori guardi, oggi dopo un mese di punizione su Facebook sono tornato a essere cosa faresti? Lo scriverò, io sono per la castrazione, ma non la castrazione chimica che propone quel falso destrorso di Salvini. Io sono per la castrazione, cioè, tutto l'apparato e poi magari potrebbe essere anche più coreografico mettergli anche il pisello in bocca, così come facevano i mafiosi, no? I mafiosi tagliavano l'uccello e glielo mettevano in bocca. Ecco, chiunque si permetta di diventare una donna, che sia italiano, carabiniere, extracomunitario, va punito con la massima severità. Però io tu hai detto una cosa, ho capito, d'accordo. Punto. Allora, io dico, bisogna accertare tutto. Quello che si sa è che avevano stipulato una polizza antistupro prima di partire. Quello che si sa ancora è che erano ubriache, ma questo peggiorerebbe la condizione, addirittura fatta, peggiorerebbe il presunto comportamento dei carabinieri, evidente. Approfittarsi di una donna ubriaca. Punto e basta, come fai a dire forse sono musulmane, che c'entra, non so, ma non sono musulmane, dai, vogliamo accertare chi sono le due americane che dichiarano di essere state violentate, vogliamo sapere di più. Non scusa, ma io vediamo lo stato di salute di questa persona che parla. Secondo te gli africani sono più portati allo stupro, secondo te? Gli africani, quelli che arrivano qui. Ma anche capirli, poveretti, li hanno illusi che l'Italia era Bengodi, poi c'è la loro protettrice, come si chiama? Boldrini, la signora, la presidentessa Boldrini, che gli ha fatto capire che qua tutti li vogliono bene. Sono uomini anche loro, sono giovani, hanno l'ormone, vedono le ragazze che vanno in giro svestito che altro, e gli viene voglia. Beh, svestite, non erano svestite. Una ragazza nuda e nessuno deve toccarla, va bene? Va bene. Ecco. Ciao Franco, non ciao. Non dico che gli africani sono più portati degli italiani, degli inglesi, no, non mi permetto di dirlo. Prendo atto che in Italia registriamo quotidianamente episodi di violenza da parte di invasori, io non li chiamo migranti, invasori. Per me l'invasore è un nemico da combattere. E come lo combatti? Come lo combatti? Con tutti i mezzi e anche bombardando i barconi? Bombardando i barconi? Li si prende, li si manda a casina loro, tipo i quattro che sono in galera. I quattro che sono in galera, perché devo, io cittadino italiano, contribuente, devo pagare per mantenere quegli stronzi? Li prendiamo, li rimandiamo al paesello di origine. Dai, che adesso lo riportano in gabbia. In Africa sono molto più vivaci, molto meno fighette delle nostre, oppure ancora più bello sarebbe mandarli in Polonia. Non si può fare, la giurisprudenza non lo prevede, ma so che in Polonia sarebbero felicissimi di accogliere. Allora devo dire la verità, che Franco Ziliani è il classico, come dire, da questo punto di vista ha idee della destra pura, caro Parenzo, della destra. Del movimento sociale, orgoglioso di esserlo, e alle elezioni non voterò un'alleanza dove la pseudodestra si è alleata col puttaniere di Arcore, ovvero Silvio Berlusconi. Ciao Franco, a presto. Se il signor Alemanno, se il signor Storace vogliono di nuovo allearsi col puttaniere di Arcore, io e tanti altri di destra come me non voteremo. Non ci ricattano più dicendo altrimenti vincono. Vabbè, ho capito, vabbè. Me ne fotto. Ciao Franco, ciao. Ciao Giuseppe, buona serata. Levategli il vino. Signor Ziliani, Ziliani che lo verrà visitato presto dal, no? Non lo so, adesso quello... No? Tu lo pensi? Ma devi dare battaglia, non devi affrontarlo così, devi dare battaglia. No, non devi dare battaglia, ma... Allora ragazzi, devo chiudere, c'è un sacco di gente in collegamento purtroppo, tra cui mio amico Tommy la Canaglia, porno attore di Pavia, autotrasportatore e porno attore di Pavia, che rimando a lunedì per forza, perché l'intervento di Ziliani, che è stato un intervento molto forte, ha un po' scombussolato le carte in tavola. Vittorio da Torino, Nino da Palermo, Rosario da Roma, andate tutti letteralmente a fare in culo, io vado a cena fuori. E buon weekend, Davide, che cazzo fai? Dove vai, caro? Non lo so, boh, vediamo adesso. Ma vai a cena con qualche donna. Mi fa male la pancia, purtroppo. C'è un po' di. Non va la pancia, quindi non puoi neanche schienarla. Perché un po' di meteorismo. Pagare a questa donna poi la cena, ovviamente. Sempre, rigorosamente, amico mio, rigorosamente. Ciao. Allora, senti, niente, divertiti. Io scusa, vado un attimo a una cena di gala. Ciao. Miserabili. Arrivederci e come sempre viva la libertà d'espressione, vaffanculo quelli che denunciano, quelli che dicono le loro opinioni, libertà d'opinione in tutti i paesi, come Trump, parlare chiaro, fottersene di quelli del politicamente corretto, vaffanculo politicamente corretto, vaffanculo, viva la libertà, viva la libertà. Siete proprio stronzi, guarda, proprio ve lo devo dire in faccia. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.